Capitolo 23. Paul non trova il popolo delle rocce. La vita fu molto piacevole quell'anno ad Avonlea, sebbene Anna nel bel mezzo dei divertimenti di quell'estate fosse spesso assalita da un senso di assenza. Non voleva ammetterlo nemmeno con se stessa, ma ciò derivava dalla mancanza di Gilbert. Quando doveva rientrare a casa sola, dopo le riunioni di preghiera e i ritrovi dell'Avis, mentre Diana e Fred, come molte altre coppie felici, indugiavano nelle vie buie, sotto le stelle, avvertiva uno strano dolore, una solitudine del cuore che non poteva scacciare da sé. Gilbert non le aveva ancora scritto, come lei pensava che avrebbe potuto fare. Sapeva che scriveva di tanto in tanto a Diana, ma non aveva voluto fare domande su di lui. E Diana, convinta che Anna ricevesse sue notizie, non le disse mai nulla di sua iniziativa. La madre di Gilbert, che era un'allegra signora, sincera e di gran cuore, ma non particolarmente dotata di tatto, aveva l'imbarazzante abitudine di chiedere ad Anna, sempre con voce squillante e sempre alla presenza di una folla, se aveva avuto di recente notizie da Gilbert. La povera Anna diventava rossa come un peperone e balbettava «non proprio di recente». Sicché da tutti, signora Blight compresa, la sua risposta veniva intesa come la giusta reticenza di una ragazza. A parte ciò, Anna si godeva la sua estate. Priscilla era arrivata in giugno per una gradita visita e, quando se n'era andata, erano giunti i coniugi Irving, Paul e Carlotta IV per fermarsi a casa tutto luglio e agosto. Echo Lodge era ancora più del solito teatro di allegre giornate e gli echi sul fiume erano indaffarati a ripetere le risate che risuonavano rincorrendosi nel giardino dietro gli abeti dagli aghi color ruggine. La signorina Lavender non era cambiata, se non per farsi ancora più dolce e ancora più graziosa. Paul la adorava ed era bello vedere quanto fossero felici. «Ma io non la chiamo mamma e basta», spiegò il ragazzino ad Anna. «Vedi, quel nome appartiene solo alla mia vera mammina. Io non posso attribuirlo a nessun altro. Lo sai, maestra. Però la chiamo Mamma Lavender. E le voglio più bene che a tutti, subito dopo papà. Io le voglio anche un pochino più bene che a te, maestra». «È giusto», rispose Anna. Paul aveva adesso 13 anni ed era davvero alto per la sua età. Gli occhi e il viso erano belli, come sempre, e la sua fantasia era ancora come un prisma, capace di trasformare tutto quanto cadeva sotto i suoi occhi in un arcobaleno dai mille colori. Lui e Anna fecero stupende passeggiate nei boschi, nei campi e sulla spiaggia. Non c'erano spiriti affini più affini dei loro. Carlotta IV era sbocciata in una giovane signora. Ora portava i capelli gonfiati in alto e aveva smesso i fiocconi azzurri dei bei tempi passati. Ma la sua faccia era sempre lentiginosa, il naso sempre a patatina e la bocca e il sorriso larghi, come sempre. «Lei non pensa che io parli con accento americano, vero, signorina Shirley, madame?» domandò ansiosa. «Proprio non mi pare, Carlotta». «Oh, meno male, mi fa proprio felice, signorina. A casa me lo dicevano, ma solo per farmi disperare, pensavo. A me non garba l'accento americano. Non ho una sola parola da dire contro gli Yankee, signorina Shirley. Madame, sono davvero civilizzati, ma datemi sempre soltanto la mia vecchia isola Prince Edward». Paul trascorse le prime due settimane con la nonna Irving ad Avonlea. Anna era lì ad aspettarlo quando arrivò e lo trovò pieno di ansia per il desiderio incontenibile di andare alla spiaggia. Laggiù avrebbe trovato ad attenderlo Nora e la signora Dorata e i marinai gemelli. Riuscì a malapena a finire la cena. Come avrebbe potuto rinunciare al viso da elfo di Nora, che lo spiava dal promontorio in ardente attesa di lui e di lui soltanto? Ma era un Paul molto silenzioso quello che ritornò dalla spiaggia al crepuscolo. «Non hai trovato il popolo delle rocce?» domandò Anna. Paul scosse tristemente i riccioli castani. «I pescatori gemelli e la signora Dorata non ci sono più», rispose. «Nora invece c'era, ma Nora non è più la stessa maestra. È cambiata». «Oh, Paul, sei tu che sei cambiato», disse Anna. «Ormai Sei troppo cresciuto per il popolo delle rocce. Loro vogliono solo bambini come compagni di gioco. Mi dispiace che i pescatori gemelli non giungano più a bordo della loro barca a vela incantata, color delle perle al chiaro di luna, e che la signora dorata non suoni più per te la sua arpa d'oro. Anche Nora non ti si farà più incontro per molto tempo. Ti sei lasciato alle spalle il mondo della fantasia. Voi due parlate di cose senza senso, come avete sempre fatto, li apostrofò la signora Irving, incerta tra l'indulgenza e il rimprovero. Oh no, esclamò Anna, scuotendo il capo. Noi siamo molto, ma molto saggi ed è un così gran peccato. Non siamo mai nemmeno la metà interessanti di come lo eravamo quando abbiamo capito che il linguaggio ci è stato dato per nascondere i nostri pensieri. Ma non è così. Il linguaggio ci è stato dato per scambiarci i pensieri, replicò seria la signora Irving. Lei non aveva mai sentito parlare di Talleyrand e non sapeva nulla di epigrammi. Anna trascorse 15 giorni calmi e felici a Ecologe nel dorato splendore di agosto. In quel periodo, per caso, riuscì ad accelerare il pigro corteggiamento di Ludovic Speed a Theodora Dix, come è stato debitamente riferito in un altro luogo della sua storia. Arnold Sherman, un attempato amico degli Irving, si trovava là nello stesso periodo e dava un contributo non indifferente alla gioia di vivere di tutti. Come mi sono divertita, esclamò Anna, mi sento rinnovata. E mancano solo 15 giorni al mio ritorno a Kingsport, Redmond e Patty's Place. Patty's Place è il posto più delizioso del mondo, signorina Lavendar. Mi sento come se avessi due case, una a Green Gables e l'altra a Patty's Place. Ma dov'è andata l'estate? Mi sembra ieri che sono arrivata a Green Gables con il mio fascio di biancospini. Quando ero piccola non potevo vedere da una fine dell'estate all'altra. Si stendevano davanti a me come una sola unica stagione. Ma adesso è come un batter di mani, una favola fugace. Anna, tu e Gilbert siete sempre buoni amici? Domandò dolcemente la signorina Lavendar. Io gli sono amica come sempre, signorina Lavendar. La signorina Lavendar scosse il capo. A me sembra che qualcosa non vada, Anna. Adesso sarò impertinente e ti domanderò perché avete litigato. No. È soltanto che Gilbert desidera qualcosa di più di una semplice amicizia, io non posso dargli di più. Ne sei sicura, Anna? Assolutamente. Mi spiace tanto, tanto. Mi domando perché tutti quanti pensano che io debba sposare Gilbert Blythe, rimbeccò Anna con accento risentito. Perché siete fatti l'uno per l'altra, ecco perché. Non è il caso di scuotere la testa, è così, semplicemente. Capitolo 24. Entra Jonas. Prospect Point, 20 agosto. Cara Anna, con la A finale, è Phil che scrive. Devo cercare di tenere aperte le palpebre per tutto il tempo necessario a scriverti. Ti ho indegnamente trascurata per tutta l'estate, tesoro mio, ma ho trascurato anche tutti gli altri miei corrispondenti. Ho una smisurata pila di lettere che attendono risposta, perciò devo prepararmi all'ardua attenzione e gettarmi nella mischia. Scusa le mie metafore crociate, sono orribilmente assonnata. Ieri sera mia cugina Emily ed io siamo state in visita da una vicina. C'erano numerosi altri ospiti e appena la porta si è richiusa su quelle mai capitate creature, i nostri vicini e le loro 3 figlie hanno cominciato a farle a pezzi. Io sapevo che appena varcata la soglia mia cugina Emily e io avremmo subito la stessa sorte. Non eravamo ancora rientrate in casa che la signora Lilly ci è corsa incontro per informarci che il servitore dei suddetti vicini si era presumibilmente beccato la scarlattina. Puoi credere ciecamente alla signora Lilly quando ti riferisce così in allegre come questa. Io ho il terrore della scarlattina. Con quel pensiero in testa non mi è riuscito di chiudere occhio. In una specie di dormiveglia mi giravo e rigiravo facendo sogni spaventosi quando ho preso a starnutire per un minuto. Alle 3 mi sono svegliata con la febbre alta, la gola arsa e un mal di testa da impazzire. Sapevo di avere la scarlattina. Mi sono alzata in preda al panico e sono andata a caccia della cugina Emily per verificare i sintomi sull'enciclopedia medica. Anna, li avevo tutti! Così sono tornata a letto, certa del peggio, e ho dormito come un ghiro per tutta la notte. In realtà, Non ho mai capito perché i ghiri debbano dormire più sodo di tutti gli altri. Comunque, al mattino stavo abbastanza bene, così non poteva essere la scarlattina. Penso che se mi fossi contagiata l'altra notte, la malattia non avrebbe potuto svilupparsi così presto. La mattina mi sembrava evidente, ma alle 3 di notte nulla appare logico. Suppongo che ti stia chiedendo che ci faccio a Prospect Point. Beh, a me piace sempre durante l'estate trascorrere un mese al mare e mio padre insiste perché vada nella sofisticata pensione della nostra cugina di secondo grado Emily a Prospect Point. Così ci sono andata 15 giorni fa, secondo il solito. E secondo il solito mio zio Mark Miller mi è venuto a prendere alla stazione con il suo vecchio calessino e quel suo cavallo che lui chiama il generoso tuttofare. È un vecchietto simpatico e mi ha dato una manciata di caramelline di menta rosa. Le mentine mi sono sempre apparse come caramelle benedette, probabilmente perché mia nonna Gordon me ne dava sempre in chiesa. Una volta ho domandato, riferendomi al profumo delle mentine: è questo l'odore della santità? Però non mi piace mangiare le caramelline di menta dello zio Mark, perché lui le pesca in giro nelle tasche con certe unghie nere e poi tira fuori un sacco di roba prima di trovarle. Ma poiché non volevo ferire in alcun modo i suoi buoni sentimenti, le ho seminate di nascosto per la strada a intervalli regolari. Buttata via l'ultima, lo zio mi ha guardata con aria di rimprovero e mi ha detto: non dovevi mangiarle tutte in una volta, signorina Phil. Adesso facilmente ti verrà un bel mal di stomaco. La cugina Emily aveva solo 5 pensionanti, 4 vecchie signore e un giovanotto. La mia vicina di tavola di destra è la signora Lilly. È una di quelle persone che sembrano trarre un sublime piacere dall'elenco di tutti i loro mali, dolori e malattie. Non puoi permetterti di citare neppure il più piccolo disturbo che lei ti dice, scuotendo la testa: oh, so fin troppo bene che cos'è, e ti fornisce tutti i dettagli. Jonas giura che una volta le ha parlato di atarassia locomotoria e lei ha detto che sapeva fin troppo bene che cos'è. Ne ha sofferto per 10 anni. E poi l'ha guarita un medicastro ambulante. Chi è Jonas? Limitati ad attendere Anna Shirley. Saprai tutto di lui a tempo e luogo. Non posso certo mescolarlo alle vecchie signore. La mia vicina di tavola di sinistra è la signora Pinney. Parla sempre con voce tremula e dolente, tanto che ti aspetti che scoppi a piangere da un momento all'altro. Ti dà l'impressione che questa vita sia per lei davvero una valle di lacrime e che un sorriso, non parliamo di una risata, sia un orribile peccato di frivolezza. Ha un'opinione di me peggiore di quella della zia Jamesina, ma non mi vuole così bene da perdonarmi per questo come fa invece zia Jamesina. La signora Maria siede ad angolo rispetto a me. Il primo giorno ho fatto notare alla signorina Maria che sembrava voler piovere e la signorina Maria ha riso. Ho detto che la strada della stazione era molto bella e la signorina Maria ha riso. Ho detto che mi sembrava ci fossero ancora delle zanzare e la signorina Maria ha riso. Ho detto che Prospect Point era bella come sempre e la signorina Maria ha riso. Se io dicessi alla signorina Maria: mio padre si è impiccato, mia madre ha bevuto il veleno, mio fratello si trova in un penitenziario e io sono all'ultimo stadio della tisi, la signorina Maria si metterebbe a ridere. Non può farci nulla, è nata così, lo so, ma è orribile e seccante. La quarta vecchia signora è la signora Grant. Lei è una cosina graziosa, ma non fa che dir bene di tutto, sicché la sua conversazione non è affatto interessante. E ora a Jonas, Anna. Il primo giorno che sono arrivato ho visto un giovane seduto di fronte a me a tavola che mi sorrideva, come se mi conoscesse dalla culla. Io sapevo, poiché me l'aveva detto lo zio Mark, che si chiama Jonas Blake e che è uno studente di teologia della Columbia e che ha avuto l'incarico di sovrintendere alla Mission Church di Prospect Point per l'estate. È un brutto ragazzo, per l'esattezza, è il giovanotto più bruttino che abbia mai visto. È alto ed inoccolato, con delle gambe assurdamente lunghe. Ha i capelli color stoppa e dritti come cordini, gli occhi verdi, la bocca larga e le orecchie. Ma non voglio pensare alle sue orecchie, visto che non posso farci nulla. Ha una voce suadente. Se chiudi gli occhi è adorabile e ha Naturalmente si è laureato a Redmond e ciò ha stretto un legame tra noi. Abbiamo pescato e siamo andati in barca insieme e abbiamo camminato sulla sabbia al chiaro di luna. Non sembrava così scialbo al chiaro di luna, anzi, era bello. Si radiava da lui una schietta bellezza. Le vecchie signore non amano Jonas perché ride e scherza e perché evidentemente preferisce la mia frivola compagnia alla loro. In verità, Anna, io non voglio che lui pensi che sono frivola, ma ti pare anormale che io mi preoccupi di quel che un tale dai capelli di stoppa chiamato Jonas, mai visto né conosciuto prima, pensa di me? Domenica scorsa Jonas ha fatto una predica nella chiesa del villaggio. Io c'ero andata, naturalmente, ma non avevo capito che lui avrebbe tenuto il sermone. Il fatto che fosse un pastore o studiasse per diventarlo continuava a sembrarmi un grosso scherzo. Bene, Jonas ha fatto la sua predica e dopo 10 minuti che predicava io ho cominciato a sentirmi così piccola e insignificante che ho pensato di essere invisibile a occhio nudo. Jonas non ha detto una sola parola sulle donne e non mi ha mai rivolto nemmeno uno sguardo, ma io mi sono messa a pensare quanto ero pietosa e frivola e gretta e farfallina e quanto dovevo essere lontana dall'ideale femminile di Jonas. Probabilmente una donna grande, forte e nobile. Lui era così retto e tenero e vero. Lui era tutto ciò che un ministro di Dio deve essere. Mi stupivo con me stessa di aver potuto pensare che era brutto, ma lo era davvero, con quegli occhi ispirati e la fronte da intellettuale che i capelli, ricadendo in disordine, gli nascondono nei giorni feriali. Era uno splendido sermone, ed io l'avrei ascoltato per ore, e mi ha fatta sentire un essere terribilmente abietto. Oh, avrei voluto essere come te, Anna. Lui è tornato a casa con me e per la strada ha riso allegramente, come al solito, ma le sue risate non potevano più ingannarmi. Io avevo conosciuto il vero Jonas. Mi domandavo se lui conoscesse la vera Phil, quella che nessuno, neppure tu, Anna, ha mai visto. Jonas, gli ho detto, ho dimenticato di chiamarlo signor Blake. Non è stato orribile. Ma ci sono momenti in cui uno non bada a cose come questa. Jonas, tu sei nato per fare il ministro di Dio. Non potresti fare nient'altro. No. Non potrei, ha risposto lui quietamente. Ho cercato di fare altro per molto tempo, non volevo fare il pastore, ma ho dovuto rendermi conto alla fine che era proprio quello che dovevo fare. E se Dio mi aiuta, lo farò. La sua voce era piana e reverente. Io pensavo che avrebbe compiuto la sua missione in modo nobile e buono, felice quella donna che l'avrebbe aiutato a condurla a termine. Lei non avrebbe dovuto essere leggera come una piuma, pronta a volare qua e là a seconda del vento. Lei avrebbe anche dovuto sapere sempre quale cappello mettere, o probabilmente ne avrebbe avuto soltanto uno. I pastori non hanno mai molto denaro, ma a lei non sarebbe importato di avere un solo cappello o di non averne affatto perché avrebbe avuto Jonas. Anna Shirley, non osare pensare o dire nemmeno dentro di te che mi sono innamorata del signor Blake. Potrei mai io innamorarmi di un magro, povero, brutto teologo di nome Jonas? Come dice lo zio Mark, è impossibile e quel che è peggio, improbabile. Buonanotte. Phil. PS. È impossibile, ma ho l'orribile certezza che sia vero. Io sono felice e infelice e spaventata. Lui non potrà mai innamorarsi di me, lo so. Pensi che potrò mai trasformarmi nella rispettabile moglie di un pastore, Anna? Che forse si aspetterebbe anche che io guidassi il gregge nella preghiera.